Allora, benvenute, benvenuti a Cabaret Voltaire. Abbiamo appena assistito allo spettacolo, cioè lo ripeto per la radio perché lo spettacolo ovviamente non andrà in onda. Lo spettacolo di Oscar Agostoni e Elga Bernardini intitolato Reietti, come creiamo i CPR. E questa sera ho deciso di invitare anche due attiviste della rete Mai Più Lager, Noi CPR, proprio perché avevo un po' il desiderio di parlare di questa realtà, se così si può definire, che esiste nel nostro paese, non solo. E quindi, diciamo, forse darei prima la parola a Oscar perché ci racconti un po' di disturbi teatro e dello spettacolo, soprattutto per chi non ha assistito e che quindi magari sta ascoltando, e dare un po' di contesto di quello a cui abbiamo appena assistito. Sì, allora, Disturbi Teatro è un'opera, cioè una creazione mia di Elga, che stava in questo momento al Mix, anzi adesso non c'è neanche più al Mix, non so adesso è sparita. E noi facciamo spettacoli, soprattutto monologhi, teatrali con un forte carattere sociale e da anni, diciamo. Lo spettacolo prima di questo, per esempio, parlava di Sole e Baleno, che erano due anarchici che si sono suicidati in carcere. C'è questa cosa del suicidio in carcere che ritorna spesso. Sono una persona, forse dovrei andare a vedere più partite di calcio, forse. Che però pochi conoscono quella storia, cioè, anzi molti conoscono l'inizio di quella storia, cioè, quando si sono suicidati conoscono molto poco la fine di quella storia, del processo che seguì. E poi l'ultimo, appunto, questo sui CPR. E in realtà, quando io cominciai a lavorare su questo spettacolo sui CPR, io dei CPR ne sapevo vagamente delle cose, sapevo che erano delle brutte cose, ma non mi aspettavo di trovare l'orrore così gigantesco che ci possa, perché tu hai comunque la speranza che sei in una democrazia, per cui sai che, vabbè, sai che delle cose la polizia può pestare in una manifestazione, ma vedere che sia proprio la disumanizzazione totale e la razzializzazione totale delle persone in questo modo, e che questo sia normale, è una cosa che ti lascia comunque, che tu fai parte di questo mondo comunque, cioè, non sei se devi bruciare tutto o cosa fare. Non so se ho risposto alla tua domanda, però no, certo, è difficile parlare dopo lo spettacolo per me. No, certo. No, un po' se vuoi raccontarlo, nel senso che è la seconda volta che lo vedo e mi sono chiesta, diciamo, nello spettacolo tu racconti anche come sei arrivato ad ottenere queste notizie, e è un po' come un percorso che racconta anche la tua storia di indagine rispetto a questo tema. E quindi, appunto, tu stesso hai appena detto, no, era un tema che non conoscevo e che pian piano, quindi non so se si può raccontare questa cosa, ma come, appunto, come mai secondo te questo tema non è così conosciuto, e quindi anche tu come ci sei entrato in contatto letteralmente e cosa ti ha spinto poi ad andare avanti, no? Perché poi nello spettacolo racconti un po' tutta la storia, ma immagino tu abbia avuto delle difficoltà nel percorso di conoscenza di queste informazioni. La conoscenza di informazioni su cosa accade al CBR è un lavoro gigantesco che ha fatto, per esempio, la rete Mai Più Lager, a cui io mi sono appoggiato, e poi anche altre reti che ci sono comunque in Italia. C'era un dossier della rete di Torino che è stato fatto qualche anno fa, perché effettivamente è molto difficile riuscire ad avere informazioni dall'interno, e non so come abbiamo fatto loro con questa incredibile caparbietà di riuscire a essere veramente puntigliosi su ogni cosa, perché è veramente una cappa oscura in cui è difficile da penetrare, per cui grazie a loro sono venuto a conoscenza di molte informazioni. Poi c'è da dire che, per esempio, la vicenda di Mussa Balde, siccome lui aveva comunque aveva molte conoscenze, avendo frequentato comunque associazioni, aveva comunque, diciamo, un retroterra di persone italiane che lo conoscevano, per cui la sua vicenda non è caduta nell'oblio come tante altre. Noi non sappiamo neanche quante poi sono le persone che sono morte nel CPR, perché chi non ha proprio contatti all'esterno, contatti nel senso di italiani, può anche essere che non si venga a sapere nulla. Per cui sulla vicenda di Moussa Balde, in cui si è mosso anche un bravissimo avvocato che è Gianluca Vitale, si è riuscito a fare, non dico piena luce, però si è riuscito ad avere una grande informazione sulla sua vicenda. Mentre come ho cominciato, questo è stato grazie alla figlia di Helga che frequentava la rete Mai più larga, nello CPR, e a un certo punto mi ha detto: ma perché tu non fai uno spettacolo sui CPR? E a me all'inizio sembrava una cosa, boh, vabbè, i CPR non lo so, nessuno neanche sa cosa sono. E poi appunto ho scoperto questo orrore, ho detto: non è impossibile che la gente non sappia queste cose, e poi è anche difficile in realtà raccontarle. È stato molto difficile per me riuscire a mettere giù uno spettacolo che sia in qualche modo uno spettacolo teatrale e non un documentario, perché ci sono tante cose da dire, anche spiegare soltanto le sigle, spiegare le leggi, per cui a un certo punto io ho dovuto tagliare tante informazioni perché diventava troppo. Ho fatto molta fatica, sono stato più volte tentato di abbandonare questa impresa di trasformare la vicenda di CPR in uno spettacolo teatrale. Meno male che non l'hai fatto. Anzi, complimenti, bellissimo. Mi hai emozionato per la seconda volta. Ecco, allora direi che colgo proprio questo aggancio al fatto che hai citato la rete Mai più Lager, Noi CPR, e introduco le due ospiti di stasera, che sono Teresa Florio e Anna Camposampiero, e vi chiederei se vi va di presentarvi e raccontare un po' la storia, forse anche proprio della rete, dell'associazione, e forse un po' da una parte direi la storia un po' di questo attivismo, e se volete anche dare un po' più di contesto magari anche alla parte che Oscar non ha parlato nello spettacolo, quindi da un punto di vista un po' più legale, politico. Sì, intanto grazie dell'invito, io sono Anna Camposampiero, grazie Oscar per l'ennesima volta, perché è riuscito a condensare in un'ora tanto, quasi tutto mi verrebbe da dire, ed è tutto vero purtroppo quello che lui racconta. Inizio io con un po' di storia della rete. La rete nasce nel 2018, quando il ministro, allora ministro degli interni Salvini, dice che avrebbe riaperto Corelli. Riaperto perché Corelli era già un CIE, Oscar ci ha fatto l'elenco delle sigle, era un CIE che ha chiuso a cavallo tra il 2013 e il 2014 per la protesta dei ragazzi dentro, che erano arrivati a cucirsi la bocca con il fil di ferro, quegli atti di autolesionismo di cui parlava anche lo spettacolo, e perché fuori c'era anche una città un po' diversa da quella che c'è oggi, diciamo, quindi un po' più attiva. Si era riusciti, c'è questa parentesi, poi magari Teresa lo fa più un excursus normativo, c'è questa parentesi di tentativo di gestire l'arrivo delle persone migranti e l'accoglienza in maniera diversa. Quindi Corelli viene chiuso fino a quando arriva il ministro degli interni Minniti. 2017 viene fatta la legge Minniti-Orlando, che decide di riaprire i centri con la nuova sigla, quindi centri di permanenza per il rimpatrio, facendone uno in ogni regione. Poi c'è di nuovo un cambio di governo, arriva Salvini raccoglie l'eredità di Minniti con gioia, direi, e quindi comunica che la Lombardia avrebbe ospitato questo centro, per un po' si diceva Brescia forse, poi vediamo, poi diventa Milano, e quindi su impulso del Naga, che è una delle associazioni che fa parte della rete, convochiamo un'assemblea cittadina 5 settembre 2018, molto partecipata, nasce la rete, su cui c'è anche una discussione, cioè chiamiamo, come la chiamiamo, come ci definiamo, alla fine scegliamo questo mai più lager, no ai CPR, assumendo che la parola lager ha un significato soprattutto per l'Occidente. Dopodiché, lo dico brevemente, poi passo la parola a Teresa, quando entri ti viene tolto il nome, ti viene dato un numero, ti vengono tolti i tuoi effetti personali, anche le lenti a contatto, ti viene dato cibo scaduto, ti vengono tolti i tuoi vestiti, ti vieni privato della tua dignità, vieni spesso malmenato per motivi futili, se stai male nessuno chiama un'ambulanza, nessuno chiama un medico, forse si può chiamare lager. E quindi abbiamo scelto di darci questo nome. E da allora il primo tentativo era che non aprisse, ovviamente non ci siamo riusciti purtroppo. Abbiamo chiamato una prima manifestazione il 1° dicembre 2018, molto partecipata, bisogna dirlo, e abbiamo cominciato a lavorare per capire appunto da un lato come impedirne l'apertura, scontrandoci con quel nessuno sa cos'è, scontrandoci con una cultura che già allora, oggi anche peggio, era strutturalmente contro le persone migranti, per poi insomma attraversare l'arrivo del Covid che ha impedito a tutti noi la militanza esterna, ma noi abbiamo continuato a lavorare, a fare un lavoro di controllo, di ricerca, di indagine, di denuncia. E Corelli ha aperto nel 2020, ottobre 2020, in piena pandemia, a dimostrazione delle priorità di questo paese. Grazie anche da parte mia, grazie anche a Oscar che ogni volta ci toglie il 99% del lavoro da fare per spiegare che cosa è la detenzione amministrativa, e vabbè, continua a farci venire la pelle d'oca ancora, ancora oggi. Sì, aggiungerei rispetto a quello che diceva Anna che appunto noi non ci siamo intestarditi sul CPR così per una presa di posizione, ma perché abbiamo pensato che fosse una sorta, come diciamo noi, la punta dell'iceberg di tutto un sistema che ovviamente partendo dai lager libici che sono stati finanziati appunto come diceva Anna dal governo Minito del 2017 agli accordi Italia-Tunisia 2020, insomma una serie di azioni di esternalizzazione della frontiera che cercano di impedire alle persone di venire qui, ecco, è tutto un intero sistema che poi fa sì che si eviti l'entrata a tutti i costi e l'oltrepassare le nostre frontiere, ma una volta che si arriva qua il colmo dei colmi è che non si ha neanche la possibilità di regolarizzarsi, perché questa è la cosa assurda, che il CPR, la detenzione amministrativa, è la sanzione di un illecito che alla fine non si può non commettere, perché al momento in Italia diciamo la sanatoria l'ultima è stata nel 2020 e devi essere per forza o badante o colf, insomma, oppure qualche volta lavoratore nell'agricoltura, la precedente è stata nel 2012. E al di là di queste cose, di questa metodologia, c'è il decreto flussi, cioè ogni anno c'è un piccolissimo numero di persone contingentate a seconda dei lavori che fanno e dei paesi dai quali provengono, per cui è consentito l'ingresso, però tu devi avere già un datore di lavoro qui che ti ha chiesto mentre tu sei tipo in Bangladesh, è una cosa assurda. E comunque nonostante questo c'è un click day in sostanza ogni anno, quelle poche migliaia di persone, di posti che ci sono vengono esauriti in pochi minuti. Ecco, al di là di questo c'è la grossa fetta dei richiedenti asilo, le persone richiedenti asilo, però diciamo che il migrante economico criminalizzato, anche se ora è criminalizzato anche richiedente asilo di questi tempi, ha come unica possibilità è quello che dicevamo prima. Quindi la cosa assurda è che poi la sanzione della detenzione amministrativa, che è quella che quantomeno viene ventilata, è una sanzione che va a colpire un illecito amministrativo che non puoi non commettere. Ecco, la detenzione amministrativa ha già questa sua contraddizione di per sé, che è quella della privazione della libertà personale in assenza di reato. Quindi le persone che sono lì non sono lì per aver commesso un reato, ma per essere irregolari sul territorio. Molti, ad esempio, quando si pubblicano dai social della rete, l'altro proprio qualche ora fa, dei video con delle persone che gridavano aiuto ma in perfetto italiano, dicono è un video falso, come fanno a parlare italiano? Cioè, non ci sono persone nei CPR frontiere che sono appena sbarcate, li mettono lì, perché uno ha proprio in mente insomma quelli che sono a Lampedusa, che magari vengono messi direttamente in CPR. Ma l'ultima volta, giusto qualche settimana fa, hanno rimpatriato un nonno, cioè aveva qua figli che a sua volta avevano, a loro volta avevano dei figli, per cui lui era un nonno, era venuto qui quando aveva un anno di età dalla Serbia, è stato rispedito in Serbia dove lui non sa neanche il serbo, non aveva nessuno, cioè è una cosa assurda. Quindi ci sono persone che sono di, dopo magari un passato anche lungo di regolarità, a un certo punto, come diceva giustamente Oscar, per un qualsiasi incidente come quello di perdere il lavoro, ad esempio durante il Covid abbiamo visto un sacco di persone, tipo le badanti, perdere il lavoro e ti ritrovi senza permesso di soggiorno. Quindi questo è l'illecito amministrativo, ma già è difficile per noi capire questa cosa, figurarsi per le persone che vengono rinchiuse là e dicono ma cioè io perché sono qui, cioè dice io non ho commesso reati, come diceva, si diceva appunto durante lo spettacolo. Non è solo un interrogativo così, perché quando uno è in carcere dice ok, io sono qua, devo saldare, con tutto quello che uno ne può pensare, però diciamo per come è istituito il carcere, io sono qui perché devo saldare il mio conto con la società, cioè una sorta di criterio di rieducazione o di appunto di saldare una mancanza, eccetera, dici io faccio un percorso, dopo ricomincio. Quando tu entri nel CPR, cioè al di là del fatto che non capisci perché non hai fatto niente, non hai nessuna prospettiva, soprattutto non sai se a un certo punto tornerai a casa o se pure ti mandano in un paese nel quale magari manchi da 30 anni e non sai soprattutto quando questa cosa succederà. Ed è una cosa veramente logorante, tant'è che è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità a parlare della detenzione come della detenzione amministrativa come un istituto fortemente patogeno. Quindi non è una cosa che diciamo noi qualche scappato di casa o in birreria che parla con Oscar. Quindi si parla di razzismo istituzionale con la detenzione amministrativa, perché è una cosa che succede solo agli stranieri, cioè non esiste la detenzione amministrativa per le persone, per i cittadini italiani, perché non esiste che prendi una multa e ti mettono e ti privano della libertà personale per 18 mesi, perché adesso si può arrivare fino a 18 mesi, anzi in Europa stanno cercando di portarli a 24 mesi. E non esiste per una persona di cittadinanza italiana essere buttati lì dentro senza, appunto, perdere la propria libertà, senza, non solo senza aver commesso reato, ma senza neanche un processo, perché tu ti fermano per strada, come si diceva prima, entro 48 ore ti mettono in CPR e nelle 48 ore successive è un'udienza che chiamano l'udienza dei 300 secondi. E in media e nel giro di 5 minuti c'è un avvocato che tu non hai mai visto, se tu non ti hanno ritirato il telefono, il cellulare, perché nella gran parte dei CPR te lo ritirano, non hai neanche qualcosa per documentare che tu magari hai dei figli qui, qualcosa, per cui ti trovi un italiano, insomma non hai un processo in cui tu prima di entrare in CPR puoi spiegare, provare la tua difesa, no, ti buttano lì, anzi tu che ti è trattenuto, noi diciamo detenuto comunque all'interno del CPR, resti lì, il tuo avvocato va dal giudice in tribunale, il tuo mediatore sta in tribunale, tu sei collegato da remoto perché il Covid ha lasciato very long Covid, ha lasciato anche questi strascichi, per cui loro non vengono neanche visti. Oggi ho incontrato un magistrato in piscina che mi diceva ma noi quando ci sono i processi per direttissimi sì, no vabbè, me ne sono trovati lì, ho trovato il garante dei detenuti, cosa fa? E allora ho detto noi quando facciamo i processi per direttissima, diceva lei, mi viene in mente dei miei colleghi tipo Cucchi, quello che è successo Stefano Cucchi, non hanno neanche alzato lo sguardo per vedere la persona, però nei processi per direttissima io almeno cerco di capire una persona, quei pochi minuti che ho per capire che tipo è. Ecco, questa cosa qua non succede per chi è in CPR, perché questo ragazzo magari, cioè, non capisce niente, è collegato online, il suo avvocato è di là, il mediatore è di là e dietro ha una caterva di agenti che insomma lui non può neanche dire. Ecco, questo a un italiano non può succedere, come anche il giudice che decide della reclusione delle persone, ci sono udienze ogni 3 mesi. Quindi una volta era ogni 30 giorni, per cui dicevi ok, dai, tra 30 giorni vediamo se mi liberano, adesso ogni 3 mesi. Per cui il giudice non è il giudice che decide della reclusione degli italiani e delle italiane, è un giudice di pace, che è il giudice che di solito, vabbè, toglie le multe, quelle cose lì, per cui non deve fare neanche il concorso in magistratura, adesso non voglio dirlo, però veramente non è che capiscano più di tanto questi giudici di pace, adesso non è, anzi c'è anche una questione di legittimità costituzionale per questa, in questo momento all'esame della Corte Costituzionale, per cui questi giudici di pace dovrebbero, insomma, fanno di tutto, insomma. E quindi, diciamo, già per questo motivo la detenzione amministrativa è qualcosa contro la quale ci sentivamo di lottare già quando era proprio un argomento di nicchia sta detenzione amministrativa. Adesso, come avete visto, allora i CPR sono tornati 10 in questo momento, perché era chiuso Torino da lunedì scorso, ha riaperto Torino, dopo anche lì chiuso dalle proteste, e continuano, ci sono tante nuove forme di detenzione amministrativa. Adesso non ne parliamo dell'Albania, del tentativo fallito dell'Albania, che ha esteso inizialmente la detenzione amministrativa alle persone richiedenti asilo, che quindi hanno diritto a un permesso di soggiorno. Cioè, questo è stato un salto, perché non si mette più in detenzione amministrativa le persone senza permesso, ma anche quelle idealmente con un permesso, perché è tutelato alla Costituzione la domanda di asilo. Ecco, lì in Albania venivano pescate le persone e venivano portate lì, quelle provenienti dai paesi di origini sicure, venivano messi lì, avrebbero tentato di metterli lì in detenzione amministrativa. Poi ci sono tanti altri tipi, abbiamo visto ad esempio le navi quarantena, sono un tipo di detenzione amministrativa. I luoghi idonei sono un'altra cosa, cioè nel commissariato adesso a volte si bypassa il CPR, per cui tu dici il CPR è in carne ed ossa, tu magari lì hai un'interlocuzione con qualcuno dentro, adesso invece no, i luoghi idonei ci sono moltissimi in questi giorni che partono, vengono messi sull'aereo da Milano e dopo essere stati fino a quattro giorni nei commissariati, cioè in una stanza del commissariato ti portano, ti fanno un'udienza dal giudice di pace, ancora meno lì, ancora meno tutele di prima, e poi ti mettono direttamente sull'aereo. Quindi questa è una detenzione amministrativa dilagante che ci preoccupa. Mi fermo un attimo, questo già per noi è tantissimo, di gravità della cosa. A questo si aggiunge una serie di condizioni all'interno che sono un po' una conseguenza di quello che anche diceva Oscar della gestione da parte dei privati, quindi tendono a tagliare i servizi, però al di là di questo è proprio la struttura, cioè da 25 anni, perché sono stati, non l'abbiamo detto forse stasera, istituiti nel 1998 dalla legge turco-napolitano, però finora non si è sepputo un bel niente, sono sempre così dovunque in Italia, comunque siano gestiti, e sono stati così anche quando a Milano nel corso del commissariamento, quindi sotto gli occhi della Procura della Repubblica di Milano, si sono ripetute le stesse cose anche quando era la Procura di Milano. Quindi noi diciamo è strutturalmente evoluto così un luogo torturante, e non siamo solo noi a dirlo, ma ormai ci sono faldoni di prove eccetera. Noi in qualche modo cerchiamo di documentare anche queste condizioni, perché l'associazione Naga, che diceva prima Anna, ha istituito un centralino telefonico che ha un filo diretto con le persone che però hanno un cellulare dove glielo consentono di tenere. Quindi a Milano, grazie a un ricorso, loro possono tenere gli smartphone, per cui mandano video e immagini, così anche come un altro centro che gradisca di Sonzo, per cui da lì, iniziando a diffondere queste immagini, forse un po' di più si è capito che cosa è. Però resta il buco nero di tutti gli altri centri nei quali il telefono non c'è. E quindi, mentre parlavi, mi è venuta in mente una domanda, poi non so se magari hai già in qualche modo risposto, però quello che mi chiedo è se esistono, cioè, dei principi secondo cui si determina il rimpatrio, cioè, e quindi diciamo da una parte se sono effettivamente umani o no, e in questo senso quindi come reagisce lo Stato italiano, l'Europa e in questo caso anche i CPR in questo giochino, come rientrano, cioè se si può spiegare, non so, è una cosa che effettivamente io non so. Tu intendi chi entra, cioè chi esce, chi viene rimpatriato tra quelli che entrano in CPR o chi entra in CPR? Chi viene rimpatriato, okay. Allora, sì, esatto. Essenzialmente sono proprio, teoricamente vengono proprio messi in CPR quelli che più probabilmente possono essere rimpatriati, teoricamente. Poi ogni tanto ci scappa qualche cinese, qualche afgano, qualche siriano, cose così. Però in linea di massima vengono messi in la popolazione, diciamo, del CPR è fatta da quelle persone la cui nazionalità è legata ai paesi con i quali ci sono degli accordi di rimpatrio, perché se tu non hai un accordo di rimpatrio le persone non le puoi rimpatriare così facilmente, quindi, per cui ci sono degli accordi anche pagati profumatamente, per cui soprattutto con la Tunisia, Egitto e Marocco, essenzialmente sono queste le principali, poi anche Bangladesh, insomma ce ne sono, Pakistan, diverse, sono molto spesso anche, coincidono anche con i paesi di origine sicura, che sono quelli che si presume che se tu vieni da lì la tua domanda d'asilo non è finta, ecco, questo è il succo dei paesi di origine sicuri, perché dici tu che okay, là sono paesi sicuri, tipo l'Egitto che notoriamente è un paese sicuro, tipo Giulio Regeni, non volevo scomodare, però è un paese di origine sicuro perché i diritti civili sono, e umani sono rispettati secondo la legge italiana, che proprio ieri con un decreto ha confermato la lista dei paesi di origine sicura. Quindi diciamo che in linea di massima si trovano queste nazionalità all'interno dei CPR. Poi se vengono rimpatriati o no, ecco, il 50% in linea di massima, come diceva anche Oscar, che viene effettivamente rimpatriato per una serie di motivi, perché magari ci sono persone che non sono identificate neanche dal loro paese, o banalmente molti vengono liberati perché stanno così allo stremo che per motivi di salute qualcuno riesce a farli uscire, qualche avvocato coscienzioso fa un qualche ricorso per far constare che sono allo stremo, e insomma altre cose, però i criteri sono questi. E un'altra cosa che trovo che sia interessante magari un po' approfondire, che è un po' uscita fuori anche dallo spettacolo di Oscar e Helga, è chi gestisce CPR, cioè quindi questa questione che siano effettivamente degli, dovrebbero essere diciamo una proprietà statale, e di fatto non è così, quindi magari approfondire un po' questo aspetto che nello spettacolo di Oscar viene raccontato benissimo, esatto. Questo rimpallo di responsabilità. Sì, questa è la parte più preoccupante, no? In qualche modo, nel senso che i CPR, i centri di permanenza, sono statali, ma la prefettura assegna attraverso bandi pubblici, e qui apro un aneddoto del lavoro che il detective Oscar ha fatto, ma che anche la rete ha fatto, quando Corelli doveva riaprire, noi come rete monitoravamo la prefettura perché i bandi dovevano essere fatti per qualunque cosa, dal battiscopa al rubinetto, all'acquisto delle tende, quindi capivamo la progressione dei lavori per cercare di capire quando avrebbe aperto o meno. Nel momento in cui dovevano aprire, viene fatto questo bando pubblico per la gestione del CPR, cioè lo Stato si tiene la parte della sicurezza, e quindi all'interno ci sono l'esercito, la polizia, tendenzialmente, almeno per quello che abbiamo avuto modo di vedere, non del territorio. Sia mai che magari ti entra uno che hai incrociato, cioè hai bevuto un caffè al bar, fa un po' brutto, e quindi no, non agenti del territorio, che così ci costano anche di più perché c'è la trasferta, bisogna dirlo, perché questa roba la paghiamo tutta con le nostre tasse. E nei bandi, all'inizio, il primo bando, la GEPSA, Engie, citata anche nello spettacolo, si è ritirata dal primo bando per Corelli perché il budget stanziato non era ritenuto sufficiente per un trattamento dignitoso. Quindi hanno avuto davvero un moto di dignità, loro, persone serie, francesi. Che cosa succede? Che questi bandi sono al ribasso, e questi bandi sono strutturati anche in modo che i gestori privati, che spesso sono cooperative, e sta emergendo sempre di più che spesso sono sempre le stesse che gestiscono, che magari hanno la gestione dei bagni in Liguria e poi invece gestiscono anche centri per le persone migranti, perché insomma ci fanno più soldi, vengono pagati a persona. Quindi c'è tutto l'interesse che le persone non vadano via, e siccome però i soldi che vengono stanziati sono oggettivamente pochi, la gestione all'interno viene fatta nella peggiore delle maniere, quindi non c'è il mediatore culturale. Abbiamo avuto casi in cui la direttrice del centro era la direttrice del gestore era anche la psicologa, la mediatrice culturale delle persone migranti, cioè un leggero conflitto di interessi, diciamo. Quindi non c'è il medico, i pasti sono appunto spesso e volentieri con date di scadenza e con simpatici amichetti all'interno, diciamo, perché anche questo è accaduto. E questa è la parte più drammatica, perché ad esempio Teresa faceva riferimento al commissariamento di Corelli nel dicembre del 2023, sì, tre, finalmente esplode, c'è stato un magistrato che insomma raccolto, io credo, anche molte delle nostre denunce, dei nostri video, del nostro tentativo di bucare questa cappa di silenzio che c'è, e ha fatto partire un'indagine sul gestore Martinina di Corelli, per cui finalmente è apparso al telegiornale il CPR di Corelli con la guardia di finanza che entrava, ed è adesso a giudizio per mancato rispetto di un contratto, quindi no, c'è una violazione di un contratto pubblico. Per noi è stata un'ottima notizia, perché appunto no, finalmente se ne parla al telegiornale, finalmente è esploso un po' la cosa, ma rimane il doppio problema. Primo, che non è il gestore il problema, è il sistema. Quindi il gestore, che avrebbe dovuto essere controllato dalla prefettura, poi la prefettura che dice che però non lo sapeva, e poi la chicca su tutto questo è il Ministero degli Interni che si costituisce parte civile nel processo. Cioè, aiuto, no? C'è un attimo di cortocircuito anche da quel punto di vista. E in più, infatti, a riprova di quello che noi ripetiamo, che appunto non è un problema di quel gestore che ha lavorato male, nell'anno di commissariamento noi abbiamo poi prodotto una controrelazione, che pensavamo che facessero una relazione, esatto, che poi in realtà nessuno ha fatto, ma non è pubblica e quindi non lo sapevamo, in cui abbiamo dimostrato che anche nell'anno in cui, come diceva Teresa, era sotto commissariamento, sotto le mani della procura, non è cambiato nulla, assolutamente nulla, né il cibo avariato, né i maltrattamenti, né gli atti di autolesionismo, né i tentativi di suicidio, nulla. Assolutamente nulla. E ora, a dicembre del 2024, c'è stato un nuovo bando, perché è finito il commissariamento, tutto a posto, abbiamo risolto, e il bando lo ha vinto Echene, che è il gestore di Gradisca di Sonzo, dove, anche qui Oscar ha citato, è uno dei nomi che Oscar ha citato alla fine, Gradisca di Sonzo ha aperto nel dicembre del 2019, nel gennaio del 2020 è morto Vaktan, questo ragazzo georgiano di 32 anni, picchiato dalla polizia, e siccome anche questo è uno dei luoghi da cui noi riusciamo ad avere immagini, se fate scorrete un po' la pagina della rete, troverete che dentro Gradisca ne succedono veramente di cotte, di crude. In particolare mi sembra che rispetto a Corelli ci sia spesso e volentieri abuso delle forze di polizia, molto di più di quello che ci arriva da Corelli. E proprio per agganciarmi anche a quest'ultimo tema, cioè esistono, diciamo, delle leggi sui diritti. E ti ho vista sospirare come già scettica. No, perché ti devo dire, cioè il nanetto è, una volta eravamo in università a parlare in statale a degli studenti del secondo anno, credo, e dopo che avevamo fatto tutto non c'era lo spettacolo, quindi tutto quello che Oscar ha raccontato nello spettacolo noi l'abbiamo raccontato, quando è finita questa cosa ha alzato la manina una ragazza, mi ha detto: scusa, ma non ci sono delle leggi che lo vietano? E ho detto: no, sono le leggi che lo fanno. Che lo fanno, no, quindi, esatto, questa è una cosa, cioè, sconvolgente. No, diciamo, diciamo, idealmente ci sarebbero delle leggi sui diritti delle persone trattenute e non detenute dei CPR. Beh, c'è la Costituzione. No, certo. No, nel senso. Sì, nel senso che no, cioè, lì dentro proprio la Costituzione è violata sistematicamente, l'articolo 3, l'articolo 32, cioè potremmo andare avanti tutti, sistematicamente, il diritto alla giusta difesa, cioè proprio è veramente una roba imbarazzante per noi che questo accada. Perché, se posso, poi sugli articoli lo passa Teresa, noi abbiamo introiettato una forma di separazione delle cose. Mercoledì sera hanno trasmesso Io Capitano, mm-hmm, che che ha vinto l'Oscar, che è un film molto bello, che racconta tutto quello che accade dalla partenza all'arrivo, no? Il film finisce con le coste siciliane, la terra promessa arrivata, e quando racconta e si sa quello che accade nei campi libici, è come se ci fosse una sorta di accettazione. In fondo sono libici, no? Cioè abbiamo sentito da poco spiegarci quanto noi siamo portatori e culla della civiltà, quindi è normale che in Libia queste cose possano accadere. Quando tu cerchi di spiegare quello che accade qui, e anche in buona parte dell'Europa purtroppo, perché non è una caratteristica solo nostra, e quando tu appunto noti la domanda non c'è una legge, perché chiunque abbia un minimo di senno discatta qualcosa che sia inconcepibile, che tu possa avere un ragazzo che si è ingoiato una lametta, che non gli chiami l'ambulanza. C'è un episodio che magari vi racconta Teresa, in cui da qui noi abbiamo mandato un'ambulanza a Bari, perché il gestore dentro... No, da qui l'abbiamo chiamata, no, certo, perché il gestore dentro non chiamava l'ambulanza mentre c'era questo ragazzo che stava male dentro. Per cui c'è anche un processo non solo di razzismo istituzionale, come diceva Teresa prima, ma anche di disumanizzazione proprio. E poi invece sulle norme. Sì, la cosa fondamentale, senza ammorbare sulle norme, diciamo che il giochetto sta nel fatto proprio che non esistono le leggi, nel senso che per la detenzione amministrativa è previsto solo un articolo piuttosto breve, saranno 15-20 righe nel testo unico dell'immigrazione, che è l'articolo 14, dove ci sono dei proclami di principi fondamentali, rispetto, bla bla bla, anche libertà di comunicazione anche telefonica con l'esterno, ma poi gli sequestrano i telefoni, insomma, e comunque si raccomanda il rispetto di tutti questi diritti umani e si raccomanda che il trattenimento, che è funzionale all'esecuzione dell'espulsione, sia effettuato per il tempo strettamente necessario. Adesso questo strettamente necessario è diventato 18 mesi, però questo è l'unico articolo che disciplina tutto il mondo che ci ha raccontato stasera Oscar, sì, scusami, perché sento un Omar al telefono. E quindi, a differenza di quello che accade nel carcere, dove esiste la legge sull'ordinamento penitenziario, dove sono stabiliti i diritti dei reclusi e l'esistenza del magistrato di sorveglianza al quale fare ricorso se esiste qualche problema nell'esecuzione della pena, chiedere misure alternative, no, tutto questo non esiste, perché esistono solo dei decreti e delle circolari che lo stesso Ministero dell'Interno si fa da solo. Cioè l'istituto dal quale dipende il CPR, la detenzione amministrativa, è il Ministero dell'Interno. Ecco, è il Ministero dell'Interno che si fa da solo dei decreti che non passano dal Parlamento, che disciplinano diritti e doveri. Già questo è uno schifo, ma magari fossero rispettate almeno quelle norme che loro mettono nei loro decreti. Per il resto sono solo circolari, prassi, cose che ogni prefettura dove c'è il CPR si fa. Cioè io decido che i miei possono tenere il cellulare, invece in un'altra parte a Trapani non possono tenere il cellulare. Questo fa sì che ci sia un'area grigia, come diciamo spesso, questa indeterminatezza di diritti fa sì che questi diritti non esistano e che soprattutto si possa fare il bello e il cattivo tempo, perché nessuno può reclamare niente. Quindi questa è l'assurdità, che è proprio da campo libero alla discrezionalità massima. Se io voglio che tu veda, se mi va di portarti dal dottore, io ti mando, se mi va di farti sentire il tuo avvocato, allora, cioè, ma non c'è una regola che dice, no, certo, quindi su questo esatto. si gioca moltissimo di quello che non funziona. Che infatti volevo mettere in evidenza questa cosa anche per far capire anche come questo giochino possa sopravvivere, no? Perché appunto anche semplicemente nella coscienza umana delle persone dovrebbe esserci un senso di giustizia, invece questa cosa è possibile proprio perché, come dicevi, la legge lo permette. E sì, certo, che bello. Intanto volevo ringraziarvi perché conoscevo proprio a malapena il mondo, e anche se fa male è una consapevolezza importante da avere. E riguardo, cioè, capisco che una giusta legge e anche poi l'applicazione della legge sarebbe la cosa ottimale, ma questa privatizzazione, no, delle carceri potrebbe essere usata, diciamo, un po' a nostro favore, tra virgolette, creando una specie di cooperativa, qualcosa, di persone con una certa consapevolezza, che che prendano in gestione loro questi centri? È possibile? È impossibile? Vai, attacca. No, allora, diciamo che noi siamo abolizionisti, cioè non pensiamo che questo meccanismo di reclusione di persone unicamente perché sono prive di un pezzo di carta sia accettabile. E quindi viene meno il fatto che possano essere democratizzati, migliorati, gestiti in altro modo. Diverso è invece un ragionamento fatto nel momento in cui tu fai un'accoglienza, come poteva essere l'accoglienza diffusa, che era perfettibilissima, ma almeno era un meccanismo dove venivano forniti scuole di italiano, supporto, aiuto, integrazione al lavoro, cioè tutta una serie di robe che appunto dovrebbero essere alla base. Allora lì magari ci voleva o ci vorrebbe più attenzione per vedere anche poi chi lo fa, perché purtroppo, come dire, la voglia di profitto caratterizza il nostro mondo e quindi bisogna prestare anche attenzione. Però è proprio il sistema in sé che non ha ragione d'essere. Tra l'altro, visto che ho il microfono, se posso, certo, volevo provare a fare un ragionamento del come ci siamo arrivati a questa roba, perché Teresa ha citato la Turco Napolitano e io di solito qui tiro fuori la domanda di rito, che voi sapete chi era Jerry Maslow? No, perché siete tutti giovani. Jerry Maslow è stato il primo richiedente asilo in Italia. Era un sudafricano che è arrivato in Italia nel 1989, si è presentato alla polizia di frontiera all'aeroporto di Fiumicino e ha detto: sono un rifugiato politico, perché era nero e veniva dal Sudafrica in tempo di apartheid. E a quell'epoca le uniche persone che venivano considerate accoglibili erano quelle che scappavano dall'Europa dell'Est perché c'era la guerra fredda, eccetera, eccetera. I poliziotti che lo hanno ricevuto non sapevano cosa fare, tant'è che lui alla fine ha ottenuto un permesso di soggiorno tramite l'UNHCR e Amnesty International, perché noi non avevamo una norma. Da quello ad oggi, in mezzo c'è stato il mondo che è cambiato e un'Europa che ha scelto di chiudersi, che ha scelto di respingere, che ha scelto di mantenere i propri privilegi sulla pelle degli altri. Per cui hai avuto l'Albania nel 91, in cui ti sei ritrovato 20.000 persone che sono arrivate in una notte, che è stata la prima, come dire, razio, perché se ti voglio venire incontro, io posso avere il diritto di gestire le persone che entrano nel mio paese, quindi me ne arrivano 20.000, le devo mettere da qualche parte per decidere dove ti metto, cosa fai, chi sei, sei ferito, non sei ferito, quell'articolo 14 che dice nella dignità, eccetera, eccetera. Il problema è che come abbiamo fatto da quello ad arrivare ad oggi, in cui io ti trattengo 18 mesi, che è un anno e mezzo di vita, senza che tu abbia fatto nulla, e in quelle condizioni, oppure addirittura oggi ti spedisco in Albania, così almeno, intanto che siccome non sono riuscita a costruire gli altri 10, e siccome quell'esperimento è fallito, poi magari Teresa, se hai voglia, entriamo un po' più nel merito della logica della follia dell'Albania e dei soldi che sono stati spesi ancora una volta, che potevano essere usati in altro modo. E quindi c'è l'interrogativo che noi ci dobbiamo porre: come rompere quel meccanismo, quegli alieni dello spettacolo di Oscar, e tornare a vederli come esseri umani, anche perché in termini numerici non esiste un'invasione. Cioè, anche questa è una narrazione che viene costruita perché così va bene tutto. Quindi no, non si possono migliorare. No. Per rispondere alla sua domanda, in realtà noi abbiamo, ci sono anche persone adesso non cooperative, perché anzi forse la prima cooperativa che si è offerta, un minimo forse che si è avventurata la prima verso Probo, forse un po' di ingenuità ce l'aveva nell'avventurarsi in questa, l'ha fatta fuori subito, ma in realtà tu ti trovi schiacciato in un sistema per cui arriva l'ispettore e dice: questi fanno un casino, al dottore gli dici: gli dai tu qualcosa a questi qua o entriamo noi nelle stanze? Cioè, tu non è che sei libero di fare la casa del mulino bianco là dentro. Cioè, noi abbiamo avuto infermieri che ci chiamavano dicendo: io sono qua perché penso di poter aiutare le persone. Ma poi mi arriva il direttore e dice: senti, devi dare assolutamente un, adesso non mi ricordo, 60 gocce di Valium, ma quello là. Cioè, e poi appunto, al di là della somministrazione, poi c'è anche la, invece la punizione, togliendoti dopo che sei diventato assuefatto ai sedativi, quella di toglierti, cioè sono, arrivi con delle direttive, per cui non sei lì, anche quelli che entrano pensando di aiutare quelle persone comunque non ci riescono. In ogni caso, cioè, per come dicevamo, proprio strutturalmente, al di là delle condizioni all'interno, è proprio strutturalmente che la cosa è sbagliata, è il concetto, per quello. Poi se vogliamo parlare di quello che succede dentro, le cose pulp, io ve le posso raccontare tantissimo e le trovate anche sui video della, però dato che quelli sono già sui social della rete, è inutile dire, però vi posso raccontare ad esempio quando siamo entrati l'ultima volta. Ecco, nel CPR non si può entrare, non può entrare la società civile, può entrare solo il parlamentare europeo o italiano e può portare un suo collaboratore. Con questa cosa del collaboratore ogni tanto riusciamo a infilarci, cioè diciamo che ci infilano volentieri perché siamo quelli che ne stanno di più, soprattutto del CPR di Milano, perché avendo questa cosa del centralino noi sappiamo esattamente chi c'è in quel momento, quali criticità ci sono, di andare a scovare nel letto quella persona che è lì in quel momento. Siamo entrati il 3 marzo l'ultima volta e abbiamo trovato, cioè noi sapevamo che quest'ultimo gestore sta molto attento a tenere pulita la vetrina di Milano, per cui appena c'è uno che protesta o che è malato eccetera lo prendono e lo portano al CPR di Trapani per il tenere un po' tutto pulito, ma noi sapevamo che c'erano dentro due persone con problemi psichiatrici perché ci avevano avvisato da dentro. E siamo entrati, è chiaro che se tu fai un giro così noi siamo entrati con la Salis l'ultima volta, col consigliere Paladini, regionale Paladini, se tu non sai niente fai un giro, parli, no, abbiamo insistito moltissimo anche se il parlamentare ha diritto di entrare a sorpresa come abbiamo fatto e parlare con le persone all'interno, la prima cosa che loro fanno è: no, non potete entrare. Ma come non potete entrare? Cioè, no, guardi che esiste la legge che dice che ormai c'è, anzi le regole del ministero che ha detto lui, che si è messo da solo il ministero, c'è scritto i parlamentari possono entrare col collaboratore. Ah no, ma in questo momento per problemi di sicurezza voi, loro sono molto nervosi, potrebbero picchiare. Ma scusi, cioè nel senso la mia sicurezza la decido io, quindi entri e parli con le persone. Quindi dopo che hai perso un'ora vai, abbiamo trovato una persona che vabbè all'inizio io mi ha detto, io ho detto ma dov'è quello un po' fuori di testa, ho detto vai nel cortile perché lì, ma non ho trovato nessuno, c'era un ragazzo che fumava normale, capelli un po' lunghi, la barba lunga, anche perché là, cioè, esiste un tagliaunghie e un taglia uno per ovviamente la tengono i gestori, non la danno a turno sotto sorveglianza di tagliare la barba, per tutto il settore. E gli ho detto ciao, come sei, come ti chiami? Francis. Ok, ma di dove sei? Degli Stati Uniti. Ah, ho detto ok, ho detto io sono un DJ, ero qua in tournée, mi hanno controllato i biglietti e mi hanno portato qua. Ma io cioè ci avevo pure creduto a un certo. No, perché era normale. No, no, non che fosse degli Stati Uniti, pensavo avesse doppia cittadinanza, però era così normale. Infatti, invece alla fine poi mi hanno detto no, è lui. Infatti poi abbiamo cercato di portarlo in disparte col dottore, perché siamo entrati con un dottore e questo ha iniziato a dire: voi mi avete rubato i soldi, io li ho messi lì 200 euro, cioè ha iniziato a farneticare con delle cose, come un altro che ci diceva in Sardegna che lui era Richard Nixon, che la sua famiglia lo aspettava con lo yacht in rada e che era scritto nella Bibbia che lui dovesse andare sullo yacht, cioè delle cose assurde. E questo ragazzo alla fine era lui, era quello che ci avevano segnalato, e lui che di giorno era lì, fumava da solo, non con lo sguardo fisso nel vuoto, di notte si denudava totalmente e faceva una specie di passerella avanti e indietro dal corridoio, facendo come se fosse un fotomodello, una fotomodella. E questa persona aveva anche importanti problemi di come si dice, di incontinenza fecale, cioè quindi se la faceva addosso. Questo per dire che se noi, adesso non è che poi è stato liberato, gli abbiamo dato un avvocato di nostra conoscenza, per fortuna è stato liberato, ma questo costa a loro, cioè frutta a loro circa tra i 60 e 80 euro al giorno, per cui queste persone sono comodissime per loro, le riempiono i sedativi, non chiamano neanche un avvocato, perché nessuno, cioè anche se tu gli dici firma una cosa, la procura dell'avvocato, questo dice ma che vuoi, e per cui ogni giorno che loro stanno là stanno mesi e mesi a guadagnare. Poi c'era un'altra persona con problemi psichiatrici, anche lui che è ancora lì, perché lui non siamo riusciti a dargli un avvocato, e quel signore di 55 anni ancora che resta sempre sotto le coperte e non vuole parlare con nessuno. Per dire, questo è a Milano, è quello che succede a Milano, cioè a 4-5 fermate da San Babile. Però insomma anche a Milano ci sono delle cose assurde, nonostante stiano cercando di tenere tutto, tutto pulito. Questo per dire, lo psicologo dentro che è entrato con noi, perché loro non entrano mai dentro i moduli perché hanno paura di essere picchiati, ovviamente, perché dopo che ti urlo che ho la gamba rotta perché mi ha menato la gente, ovviamente non li portano all'ospedale, sennò loro dicono come si sono fatti male, implorano di andare in ospedale, almeno in infermeria, non li fanno neanche entrare, e allora è chiaro che se entrano poi a un certo punto magari gli girano le scatole, anche se non è mai successo niente di questo tipo. E no, lo psicologo ha detto, ma io non sapevo che ci fosse questa persona qua dentro, cioè lo psicologo che lavorava lì, cioè, anche un'altra volta un altro pestaggio, ha detto, ah, noi del pestaggio l'abbiamo saputo perché abbiamo visto il vostro video. Cioè, ma deve per dire, eh? Quindi quello che dici tu, la cooperativa sta nelle sue stanze, finge come la zona di interesse, però all'interno del CPR finge che non accada niente perché lì non mette mai piede, perché guadagna su quelle persone che stanno lì, poi possono morire, impiccarsi. Quando se vai lì nel CPR, il sala mensa è tutto pieno delle corde che hanno usato per cercare di impiccarsi, cioè questa è la normalità all'interno, ecco, questi. Così. Forse c'era un'altra domanda. Grazie, no, la mia domanda era invece sulla parte femminile. Io ignoro se esista una parte femminile di persone che rimangono in detenzione amministrativa e se c'è differenza, dove stanno, com'è la loro situazione. Grazie. A Milano no, l'unico CPR in cui c'era una sezione femminile è Ponte Galeria, a Roma. Anche negli altri non c'è, tendenzialmente diciamo che la selezione, uso il termine selezione apposta, che viene fatta è che nei CPR a livello teorico non possono entrare le persone fragili, le persone fragili sono i minori e le donne, quindi a parte appunto questa sezione di 5 posti, sì, che c'è a Roma, le donne non entrano in questo circuito. Poi invece c'è il problema che appunto sono tutti idonei, diceva Oscar, la parvenza di legalità è che tu non puoi privare della libertà una persona se non c'è un giudice di pace che dice che appartieni a quella categoria di paesi o al fatto che sei irregolare, e poi c'è anche una visita medica. Ci deve essere qualcuno, questo anche per le carceri, ci deve essere qualcuno che attesta, se no Formigoni non usciva per ragioni di salute, insomma, ci deve essere qualcuno che attesta che tu puoi essere privato della libertà da un punto di vista psicologico e che non hai malattie o patologie che non ti permettano di essere rinchiuso, però sono tutti idonei appunto. Poi ci sono le azioni come quelle che raccontava Teresa, in cui come goccia nel mare li cerchi di tirarli fuori uno a uno ogni volta che ti arrivano alla segnalazione, perché è evidente che una persona psicotica non può stare rinchiusa, o è evidente che una persona oncologica non può stare rinchiusa, eccetera eccetera, però li tiri davvero fuori uno a uno, quindi è una... E volevo invece, siccome Teresa aveva citato, sì, poi la campagna dei medici, ma Teresa ha citato l'ingresso e chi entra, no? Tornare un attimino su quello, cioè che quel Moloch invisibile di cui si parla nello spettacolo lo è perché non entrano i giornalisti, non entra la società civile, poi puoi fare la richiesta, però nel momento in cui magari ti accettano la richiesta d'ingresso, ti fanno vedere gli uffici, ti fanno vedere, fanno fare una gita turistica e non guardi quello che c'è dentro. A un certo punto nel percorso di vita della rete ci siamo interrogati come fare a denunciare di più quello che accadeva, perché non bastavano i video che arrivavano, non era sufficiente, e abbiamo incontrato, e ci tengo molto a dirlo, l'ex senatore De Falco, che era quello della Costa Concordia. Lo dico perché quando hanno provato a dirgli no, qua non si entra, ha fatto la stessa cosa che ha fatto con Schettino, quindi no, la reazione è stata quella, che ha fatto quello che secondo me dovrebbero fare tutti gli istituzionali eletti, cioè lui si è messo al servizio della rete. Noi abbiamo costruito il suo ingresso a sorpresa, che è avvenuto nel giugno del 21, mi sembra, due ne ha fatti, 21, uno nel 21 e uno nel 22, un anno dopo. È arrivato, ha telefonato tipo al prefetto il venerdì dicendo ciao, domani vengo a trovarvi e vengo a trovarvi con, e quindi sono entrati con una ragazza che parlava arabo, perché in quel momento dentro c'erano solo tunisini, ne è scaturito un report che trovate sul Linktree della rete, che non è stato buttato fuori subito. Cioè il riconoscimento a De Falco è che è stato fatto l'ingresso, lui è entrato, è voluto rientrare il giorno dopo, ci ha confessato che anche lui in realtà, quando noi l'abbiamo coinvolto, pensava che noi esagerassimo un po', che fossimo ideologicamente schierati e che la pompassimo e la raccontassimo un po'. Invece ha detto no, porca miseria, anzi è oltre quello che io potevo immaginare. Se ha fatto sua questa cosa, quando è uscito non c'è stato nessun comunicato stampa, nessun video, nulla. La rete, insieme agli avvocati del Naga, insieme alle persone più competenti, ha lavorato per più di un mese per produrre due esposti alla procura e un report che poi è stato presentato alla Camera, al Senato. Ci abbiamo girato per una vita andando in giro a presentarlo, e un anno dopo abbiamo rifatto la stessa cosa. Quello è stato il click che ha fatto sì che noi oggi, se c'è bisogno, abbiamo individuato alcune figure che ci permettono di usare il loro ruolo per o andare dentro o continuare a denunciare o portare fuori le persone. C'è qualche altra domanda o procedo con la mia? Non so se anche Oscar hai voglia di raccontare quello che è successo, cioè questo weekend che siete andati con Marco Cavallo appunto al CPR di Torino, giusto per dare un'idea anche un po' di quali sono le azioni di attivismo contro appunto l'esistenza dei CPR. E poi estendo la domanda anche a voi, che un po' è già uscito fuori dai discorsi che avete fatto, ma magari dare anche proprio più una specifica su quali sono le vostre azioni di attivismo in questo senso. Sì, come è stato detto prima, lunedì scorso è stato riaperto il CPR di Torino, che era stato chiuso 2 anni, perché era stato incendiato dalle persone che erano dei trattenuti all'interno durante una rivolta. Ed è stato fatto un presidio il sabato mattina, prima dell'apertura, e c'era questa figura che è Marco Cavallo, che è un'opera che è stata realizzata da Franco Basaglia insieme a una serie di artisti e anche dei pazienti nel 78, se non sbaglio, è stata fatta all'interno dell'ospedale psichiatrico di cui Basaglia era all'epoca il primario, il direttore sanitario, sì. E che è questo, una specie di cavallo alto 4 metri, cioè è un cavallo alto 4 metri, fatto credo in cartapesta, con le ruote, e doveva simboleggiare, si dice. Smetto di parlare quando finisco gli spettacoli, non sono più capace di parlare. Doveva simboleggiare la rottura, la corsa fuori dalle istituzioni totali, quando è stato fatto nel 78. È stato poi riutilizzato questo Marco Cavallo anche per far chiudere le prigioni psichiatriche di... I manicomi proprio. Gli ospedali giudiziari psichiatrici. E poi adesso si è voluto riutilizzarlo per tentare di simbolicamente far chiudere i CPR, sperando che funzioni, visto che questo Marco Cavallo sembra che abbia delle proprietà comunque magiche. È stato portato di fronte al CPR di Torino e farà un tour forse in tutti o in molti CPR d'Italia per portare a questo che comunque è da vedere. Marco Cavallo è blu e è blu, è alto, si presenta molto bene e ispira libertà, ispira il salto oltre il muro verso la libertà. Sì, Sì, volevo aggiungere che appunto siamo riusciti anche con la rete, in particolare il nostro dottore Nicola Cocco, a attirare l'attenzione su questo, sul problema della salute mentale all'interno di CPR, da un lato perché nonostante lo stesso decreto del Ministero dica che le persone appunto malate con problemi psichici non possono entrare, come raccontavo, ci sono lo stesso, e soprattutto perché anche le persone che sono sane, stando in quella situazione logorante, dove continua a vedere persone che si tolgono la vita, dove che si fanno autolesionismo, che vengono picchiate, insomma alla fine ne esci con problemi psichici anche tu il più delle volte. Quindi proprio per sensibilizzare il comparto sanitario in generale, come abbiamo una specie di sezione che si chiama No CPR Salute, abbiamo iniziato una campagna nella quale poi insomma Marco Cavallo fa parte di questa del complesso di questa campagna, che invita i dottori e le dottoresse, perché quella visita di idoneità che si diceva prima è l'ultimo baluardo del comparto sanitario pubblico, perché mentre quando vai dentro anche i dottori sono dipendenti dal gestore, come si diceva prima, invece questi dottori che ti fanno la visita prima di entrare sono presi dal pronto soccorso, cioè al momento vanno da quel pronto soccorso e arrivano questi agenti con una persona in manette dicendo questo è uno pericolosissimo, subito ce lo dobbiamo portare di lì, prenda. Quindi alla fine i dottori non sanno neanche che cosa stanno facendo e dove stanno portando questa persona, perché già se gli dici CPR ti dicono CPR, e poi gli mettono pressione, e allora alla fine gli misurano la pressione e vedono se ha la scabbia o no, è idoneo. Allora a quel punto noi abbiamo cercato di dire: dottore e dottoresse, state capendo cosa state facendo? Cioè, siete sicuri che questo coincide col vostro giuramento di Ippocrate, che nel vostro codice deontologico ci sono comunque delle norme che dicono che tu col tuo comportamento come dottore o dottoressa non puoi aiutare a mandare delle persone in situazioni che possono pregiudicare la sua salute? Quindi state ben attenti, perché a nostro avviso nel momento in cui voi mettete quella firma sul certificato di idoneità non è un atto di cura come quello che voi avete giurato di fare, ma un atto politico. Quindi voi vi state rendendo praticamente braccio della, non dico della legge perché la legge dovrebbe essere giusta, ma braccio delle prefetture e del ministero, che vogliono che le persone, sempre più persone, entrino in questi luoghi per mera propaganda, perché alla fine stiamo parlando di 800 posti all'interno di CPR, 800.000 posti in tutta Italia. E quindi abbiamo fatto questa campagna per sensibilizzare le persone, cioè dottore e dottoresse, a certificare, a dire che nessuno è idoneo a entrare in questi posti, perché proprio sono strutturalmente comprovato, abbiamo tutti i documenti, il Ministero dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i nostri documenti, per dire che in scienza e coscienza, come dice Nicola Cocco, secondo me questa persona è inidonea. Quindi questa è la campagna appunto per la sensibilizzazione del comparto medico, e in più ultimamente stiamo denunciando questa deriva manicomiale, perché come dicevo prima tante volte c'è un homeless di quelli che proprio che guardano nel vuoto, che raccolgono da per terra i mozziconi di sigaretta, la vecchietta chiama la polizia, dice ma qua, questo qua cosa ne facciamo? Reati non ha fatto, non ha voglia lo Stato di occuparsi della presa in carico, di portarle in un luogo che ne so al Niguarda, allora se è straniero ovviamente gli sbatto, non avrà mai il permesso, perché quelle persone si vanno a ricordare di rinnovare un permesso, lo sbattono nel CPR. Quindi a questo punto sta diventando una discarica sociale, e per quello se nessuno va a guardare, se nessuno da dentro ti chiama al centralino e dice guarda che qua c'è uno che fa la sfilata e passerella nudo e se la fa addosso, tu non saprai mai. Però dentro viene sempre più usato. A un certo punto c'era un periodo che a Milano c'erano solo homeless che venivano dal Veneto, parlavano tutti Veneto, perché a un certo punto, o comunque da Trento, Padova, cioè Trentino e Veneto, perché evidentemente c'erano degli ordini di polizia di fare piazza pulita per il famoso decoro, per cui li prendono e li portano in questi luoghi. Quindi Marco Cavallo serve anche per questo. Infatti dopo il presidio la mattina, al pomeriggio abbiamo fatto un convegno nell'aula magna di neurologia dell'Università di Torino, dove ci sono stati stati, appunto, c'era anche un collega allievo di Basaglia che ha parlato della dannosità, della psicopatogenicità di questi luoghi, e altri, vabbè, antropologi, altre figure, per cui appunto si è cercato di sancire, insomma, questa deriva manicomiale e la dannosità di questi posti. Quindi sta diventando anche sempre più scientifico dal punto di vista della salute. Marco Cavallo, appunto, perché è visibile, anche quelli che passavano dicevano: ma che cos'è? E quindi si fermavano a chiedere. Allora abbiamo pensato che se troveremo i soldi lo vorremmo portare nei vari CPR, insomma, questo è. Sulla domanda anche dell'attivismo, diciamo che oltre alle cose serie come i convegni, gli incontri, eccetera, cerchiamo sempre anche di trovare il modo di rompere un po' il buco mediatico, per cui per esempio la campagna dei medici nasce dal fatto che, se vi ricordate, a un certo punto, non mi ricordo chi però, aveva preteso che i medici del pronto soccorso denunciassero gli irregolari. Ed era partita una campagna da parte dei medici con tanto di adesivino che diceva: io non denuncio. E quindi abbiamo detto: c'è quella sensibilità, proviamo a... Abbiamo fatto un lavoro simile con dei musicisti classici, perché abbiamo fatto un concerto con cori, non in via Corelli perché non ci hanno fatto arrivare, ma un pochino all'Ortica, un pezzettino prima. Ci proviamo ogni tot di inventarci qualcosa per riuscire a ricordare che esistiamo. Abbiamo portato il carbone alla Befana, al sindaco Sala, che non si è voluto costituire parte civile nel processo, al gestore, cioè cerchiamo anche di avere dei guizzi creativi. E su questo anche lì c'è il problema della cultura fuori da noi. Il primo Natale dell'esistenza della rete, quando non aveva ancora aperto Corelli, abbiamo fatto un flash mob in Piazza Duomo in cui ci volevano dare reato di imbrattamento, ed era ancora prima del DDL sicurezza, quindi il clima era già un po' quello, dove abbiamo portato la Madonna, Gesù, la Madonna, Giuseppe, Bue, Asinello, Battello, Paglia, e li abbiamo chiusi in un CPR fatto con la rete dei conigli. Facciamo la nostra sceneggiata, gestiamo una cosa con la polizia, c'è un sacco di polizia in Borghese, in Duomo, sapevatelo, e finisce questa sceneggiata, si avvicina un signore un po' adulto che mi dice: posso farle una domanda? E io dico: vai, adesso gli spiego cosa sta succedendo. Perché odiate gli italiani? Porca. No, ma infatti penso che, poi un commento un po' banale, però indubbiamente che tutto questo sistema sussista proprio per il basico sistema della paura, no? Cioè la paura del diverso e di quello che non conosciamo, della nostra incapacità di includere e vedere quello che è fuori da noi. E quindi sicuramente penso sia indubbiamente un tema culturale prima di tutto. E io personalmente sono venuta a conoscenza anche di questa cosa e del vostro spettacolo, perché sono andata alla presentazione di questo libro che un po' mi sento di promuovere, che si chiama Chiusi Dentro e che è uscito l'anno scorso ed è stato curato, se non mi sbaglio, da Rivolte ai Balcani, che è questa, diciamo, rete che cerca di difendere i diritti di quelli che percorrono la rete dei Balcani. E che effettivamente spiega molto bene, cioè fa un'analisi, diciamo, politica di tutto il sistema di respingimento dei migranti e mette molto in evidenza tutti i casi anche dei CPR, e tanto che adesso esiste anche un sito, credo, di Altre Economia, ce la posso fare, che fa vedere anche benissimo, ci sono delle immagini prese dall'alto di tutti i CPR esistenti, e quindi in qualche modo si sta cercando indubbiamente di creare sensibilità su questa cosa. E quindi, insomma, su questo era anche per dirvi che sono molto contenta che siate qua, e uno dei motivi per cui vi ho invitati era proprio anche perché mi interessava dare voce a questa cosa e che in qualche modo arrivasse a un pubblico sempre più ampio, tendenzialmente per fare consapevolezza e perché poi ognuno di noi in qualche modo cerchi di cambiare questa, cioè andare contro tendenza a questa cultura fascista, possiamo dirlo, razzista, viviamo in un paese fascista, quindi possiamo dirlo. No, niente, quindi vi ringrazio molto di essere stati qui, non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere. Vieni, dai, vieni Elga. No, lo so, per il libro. O se voi volete fare un ultimo commento. Io uno, perché viviamo in un paese fascista, ma le norme che hanno dato vita alla detenzione amministrativa, l'hanno mantenuta e la implementano, non sono state tutte fasciste. Questo è il grande problema. L'idea di assumere la persona migrante come nemico, come responsabile, come colpevole, ha più o meno amplificata tutta la discussione sui CPR in Albania, sui centri in Albania, prima che fossero CPR, è stata fatta mentre il governo votava la finanziaria, quindi si è discusso pubblicamente sui giornali di quello e non di quello che era la finanziaria. Però è proprio un problema di scelta che ha fatto l'Europa, che ha fatto l'Italia, nel momento in cui il mondo fuori da noi è cambiato e sono cambiati i flussi migratori e sono aumentate le guerre che peraltro spesso e volentieri noi sostenevamo, o il cambiamento climatico, tutto quello che può portare le persone a lasciare il proprio paese, l'Europa ha scelto di chiudersi e di respingere, e oggi porta a compimento, e questo credo che sia importante, perché sì, abbiamo un governo fascista che peggiora le cose, che le fa in maniera più disinvolta. La Meloni ha fatto un video che era veramente una roba da Istituto Luce, in cui diceva non venite perché vi rimanderemo a casa, rivolgendosi direttamente a, ma abbiamo un problema più profondo. Ci sono anche tanti sinceri democratici che non vogliono le persone migranti. Ah, questo indubbiamente, sì, sì. Volevi dire qualcosa? No, era una cosa che riguarda. No, volevo dire solo, adesso volevo un po' vantare a nome della rete, insomma, il fatto che comunque penso che un certo contributo l'abbiamo dato anche noi, rispetto anche altre cose di approfondimento, altri studi, altre metodologie che si basano sull'interlocuzione con le autorità, e quindi la richiesta di dati, di appunto quante persone sono trattenute, da dove vengono, eccetera. La nostra fatica che facciamo, che speriamo venga premiata da risultati un domani, cioè dell'abolizione, è proprio il mantenere invece il filo diretto con le persone all'interno. Abbiamo fatto sto centralino dell'associazione Naga, che doveva essere limitato al CPR di Milano, alla fine non esiste nient'altro in Italia praticamente, per cui arrivano telefonate da tutti i CPR d'Italia, cioè non è solo su Milano, ma si è esteso, e c'è un enorme bisogno anche lì dove non ci sono i telefoni. Qualcuno riesce dalla cabina telefonica a pagare. Il problema è che se chiamo dalla cabina telefonica è un numero privato, quindi tu o rispondi al volo oppure non riesci a richiamarlo, quindi anche questo, che dire che si rispetta la libertà della comunicazione con l'esterno perché ci sono le cabine, è una cosa infame, senza fondamento. Quindi diciamo che le notizie che ci arrivano sono come dirette, quindi anche quando facciamo gli accessi è bello poter confrontare quello che dice la prefettura, i numeri che si trovano in queste inchieste, e poi invece quello che trovi veramente, che ti dicono le persone. Insomma, dall'altro, quando ti dicono ci addormentiamo tutti dopo che mangiamo, ecco, che allora dici ops, forse qualcosa c'è nel cibo, ecco. E quindi questa è un po' la fatica che volevo un po' rivendicare su, per quanto riguarda la rete, ecco, abbiamo cercato sempre di portare fuori le voci dei diretti interessati, le dirette interessate, al quale poi va il merito anche di tutto il lavoro che abbiamo fatto, perché ci hanno dato fiducia, insomma, in qualche modo. No, infatti grandi complimenti, e credo che sia, cioè sono molto convinta di questo, e credo che sia anche il motivo per cui ho iniziato questo podcast, per dare spazio e voce proprio a queste realtà, a queste lotte, perché in realtà una cosa che mi scoraggia tantissimo, anche pensando all'ultimo commento che hai fatto, Anna, è che alla fine credo che il motivo per cui questo sistema sussiste sia sempre per un motivo di soldi, per un motivo di guadagno, e penso che questo sia alla base in generale dell'individualismo e della cultura che c'è nella società di oggi. E mi sembra, cioè non so se è un commento incoraggiante, wow, e no, positivo, possiamo... però diciamo mi sembra più vado avanti, più cresco, più penso che sia veramente difficile uscire dall'ottica di, cioè credere che esista una coscienza, una giustizia personale che vinca su questo desiderio di guadagno e di arricchimento, che mi sembra che domini qualsiasi, anche appunto collegandomi al discorso di prima, qualsiasi genere di politica, nel senso che in ogni caso... Infatti è lì l'inghippo, perché in sostanza al di là di voi questo... Voi mi date speranza, però... No, infatti vorrei peggiorare la situazione, vorrei peggiorare la situazione dicendo che oltre a questo business ovviamente che c'è sotto, c'è anche questo diciamo criterio, vabbè, la leva del tutto è una funzione propagandistica, diciamo elettorale, cioè noi stiamo parlando, come dicevo, di 6.000 persone che passano i CPR, dei quali 3.000 sono rimpatriati ogni anno, e in Italia ci sono tra le 600 e le 700.000 persone irregolari, vuol dire che ogni anno viene dal CPR viene mandato via lo 0,5% delle persone irregolari sul territorio, quindi ti viene da dire, ma veramente servono per rimpatriare le persone o servono perché a qualcuno fa comodo dire c'è un pericolo, i nostri valori, le nostre donne, il nostro lavoro viene messo in pericolo e quindi ci siamo noi col pugno di ferro che vi mettiamo al riparo da questi invasori, dagli alieni che diceva Oscar. E purtroppo è un discorso che non ha fatto solo la destra, quindi questa è la cosa più storaggiante, perché anche adesso che vedi che certa sinistra dice ma costano un botto di soldi, non è che dice questi luoghi sono dei luoghi infami, dicono che costano un botto di soldi, cosa che ovviamente fa leva su, insomma, far leva sulle tasche funziona sempre, però insomma è proprio da partiti che si fanno, dovrebbero farsi portatori di certi valori, insomma un passetto in più potrebbe essere fatto. Quindi a scoraggiare di più c'è anche la sinistra, che ha sempre seguito la destra sul discorso sicurezza, e penso che a Milano tra l'altro abbiamo un sindaco che ha deciso di tacere sul CPR e su molte altre cose, e insomma quindi c'è anche questo problema, però hanno giocato sul fatto che non si sapesse bene che cosa fosse, quindi se magari c'è una maggior conoscenza, anche infatti grazie per questa possibilità di parlarne, penso che insomma la cosa possa essere diffusa e magari un domani anche essere infatti resa... credo in questo, cioè alla fine credo nel fatto che più le persone sono consapevoli di quello che succede e più hanno la possibilità di avere un pensiero critico su quello che gli sta attorno, e questo credo avvenga solo attraverso la consapevolezza, più possa esserci una speranza, però quindi sì, vi ringrazio di questa serata. Grazie a te. E niente, spero che esatto, a voi sia resistito. Spero che vi siate intrattenuti bene. E vi invito a venire anche settimana prossima, sabato prossimo. Non so se Rossella vuoi salire sul palco e promuovere il tuo spettacolo della settimana prossima. Medea delle case popolari, lo ripeto per la radio. Medea delle case popolari ha perso il centro. Con un ciao! È una carapata questa. Ho visto che la conosco. Partiamo dalla Medea per raccontare una periferia e diciamo dal contrario, dove ci sarà tutto un lavoro che farà il pubblico. Esatto, è uno spettacolo partecipato. Esatto, quindi venite e venite numerose, numerosi, spammate e venite sabato prossimo. Come sempre, grazie Exalge. Faremo il possibile perché il 5 ci sarà una mobilitazione diffusa contro il DDL sicurezza in tutta la città. Quindi se sopravviviamo alla giornata, veniamo sicuro. Rientriamo nel movimento. Grazie mille, buona continuazione. Grazie.